a questo periodo segue, okay, il periodo successivo, la fase successiva, che è una fase che si svolge tra il 41 e il 43, quindi un brevissimo periodo in realtà, sono 2 anni e mezzo. In cui, come vedete, il territorio occupato dagli italiani aumenta, si ingrandisce in seguito all'attacco contro la Jugoslavia. Forse abbiamo visto regno dei croati sloveni, serbi, croati e sloveni, scusate, che poi si chiamerà Jugoslavia, il paese che si forma in seguito alla caduta dell'impero austro-ungarico a est dell'Italia. Questo paese viene attaccato e conquistato dai tedeschi e dagli italiani nel 1941, con una vera e propria guerra lampo che dura 10 giorni. La Jugoslavia si arrende e viene smembrata. I territori jugoslavi vengono in parte annessi dai paesi che l'hanno attaccato, in parte occupati militarmente, e in particolare in questa zona, che è quella che ci interessa maggiormente, l'Italia aumenta il proprio territorio e occupa anche militarmente altri territori, anche appartenenti al cosiddetto Regno di Croazia. E in questa zona addirittura annette una parte di Slovenia con la capitale Lubiana. Allora, questo periodo è un periodo molto complesso, siamo nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, che è cominciata nel 1939, l'Italia è entrata in guerra nel 1940, quindi nel 1941 comincia questa fase, siamo nel cuore della guerra, e in questi territori si sviluppa praticamente subito un movimento di resistenza partigiana, che a differenza di quella che è la resistenza italiana, è una resistenza guidata esclusivamente dal Partito Comunista, con il suo segretario che è Tito, e che quindi non ha diverse anime politiche al suo interno. Ha una guida esclusivamente comunista. Questo non significa che tutti i partigiani siano comunisti, assolutamente no, anzi è una piccolissima minoranza di persone iscritte realmente al partito, ma la leadership, la guida sia politica che militare è esclusivamente quella del Partito Comunista. Questa resistenza è una resistenza straordinariamente efficace, straordinariamente forte, che riesce a creare di fatto il movimento partigiano più forte di tutta Europa, che è l'unico che riesce a liberare il proprio paese da solo senza l'aiuto di forze esterne, tranne nel caso della liberazione di Belgrado, che avviene nell'ottobre del 1944 con l'aiuto dell'Armata Rossa, ma di fatto l'intero paese viene liberato dagli stessi partigiani jugoslavi. In questo contesto si sviluppa non solo una guerra di resistenza contro gli invasori, quindi non solo gli italiani, ma anche i tedeschi, i bulgari e altre forze, ma anche una guerra civile interna al contesto jugoslavo, che forse è quella che provoca il maggior numero di morti, una guerra civile motivata da ragioni politiche e ideologiche, appunto anche data dal fatto che il movimento partigiano è esclusivamente comunista, ma anche da ragioni nazionali, con stermini reciproci tra serbi, croati e altre nazionalità. Ci troviamo nella zona, di fatto nella zona d'Europa, non solo animata dal più grande movimento di resistenza, ma anche la zona d'Europa col maggior numero di vittime. La Jugoslavia è il paese che ha avuto 1 milione di morti nella Seconda Guerra Mondiale, è il paese che ha avuto il maggior numero di caduti nel corso della guerra, in rapporto col numero di abitanti, naturalmente. Con l'esclusione della Polonia, includendo la Shoah, però, quindi diciamo con l'esclusione della Shoah anche in Polonia ci sono stati meno morti. Quindi è come dire, il cuore della guerra più violenta mai combattuta nella storia dell'umanità. Stiamo parlando del come dire, l'apice della violenza su un problema della storia dell'umanità, in qualche modo, avviene proprio in questi territori. Quindi è un contesto di estrema violenza. Un contesto di estrema violenza in cui gli italiani fanno la loro parte. C'è, come dicevo, si sviluppa un movimento di resistenza molto efficace. Gli italiani reagiscono con estrema violenza, con pratiche repressive molto dure, che di fatto seguono le stesse logiche adottate dai nazisti in Italia dopo l'8 settembre del 1943, cioè dopo l'armistizio. quando si sviluppa anche da noi il movimento di resistenza. Probabilmente tutti conoscete, almeno per sentito dire, le stragi naziste in Italia, eccetera. Ecco, gli italiani seguono esattamente la stessa logica, che di fatto è una logica che colpisce principalmente le popolazioni civili. Cioè, l'idea è quella di terrorizzare le popolazioni civili per impedire che appoggino, diano appoggio al movimento partigiano. Questo viene fatto attraverso una serie di pratiche repressive che sono basate sulla cattura di ostaggi, sulle fucilazioni per rappresaglia, sulla distruzione di interi villaggi, ma in particolare sulla costituzione di campi di concentramento. La pratica della deportazione è la principale pratica repressiva portata avanti dagli italiani. Gli italiani arrivano a deportare 100.000 jugoslavi nel corso della guerra, costituendo un sistema di campi di concentramento che non sono campi di sterminio, non ci sono camere a gas o forni crematori, ma sono luoghi di internamento di persone, in stragrande maggioranza civili, quindi donne, bambini, vecchi, che vivono in condizioni estreme. Ed è una pratica che porta alla morte di circa 5.000 persone nel corso del periodo. Di queste, circa 1.500 muoiono nel campo di Arbe, che è un'isola della Dalmazia, che in realtà è subito sotto queste due isole che si vedono qua. Quindi è in quest'area. Questo è il peggior campo di concentramento italiano nella Seconda Guerra Mondiale. Ci passano circa 30.000 persone, appunto 1.500 muoiono di stenti, di fame, di freddo, principalmente in quest'isola. E io, tra le altre cose, quest'anno ho lanciato a Torino, nella città da cui vengo, una campagna per cambiare il nome della via Arbe che esiste a Torino. In diverse città italiane esistono vie che si chiamano dedicate all'isola di Arbe. Evidentemente nessuno dei nostri amministratori si è mai reso conto che Arbe non è soltanto una bella isola della Dalmazia, ma è anche un luogo di morte e di tortura per migliaia di persone. E quindi credo che sia venuta ora di provare a fare politica alla memoria dal basso, diciamo così, e provare a cambiare almeno questo, almeno simbolicamente, dare un'immagine diversa di noi. Ecco, nel caso, nello specifico, in quest'area amministrata dagli italiani, avvengono una serie di eventi repressivi molto violenti. Uno dei più famosi è la distruzione di un intero paese, si chiama Podum, è poco a nord di Fiume. Nel 1942 vengono uccise un centinaio di persone e tutti gli altri abitanti vengono deportati ad Arbe. Lo dico per sottolineare il fatto che questa attività partigiana e questa attività repressiva non avvengono soltanto nella Jugoslavia, ma anche nei territori che prima appartenevano all'Italia, cioè nei territori che nella mappa precedente facevano parte già dello Stato italiano. Cioè l'attività partigiana jugoslava è molto efficace, molto attiva anche nei territori che teoricamente appartenevano già all'Italia nel periodo precedente. Ecco, questa fase termina l'8 settembre del 43. L'8 settembre del 43 è la data cardine, io credo, della storia italiana, è un momento di passaggio epocale, forse ancora di più del 25 luglio, che è la caduta del fascismo, come probabilmente sapete, le dimissioni di Mussolini, l'arresto, eccetera. L'8 settembre, cioè poche settimane dopo, il re firma l'accordo di armistizio, che di fatto è una vera e propria resa agli alleati, e nel momento in cui viene dato l'annuncio dell'armistizio, il re, la corte e il governo italiano fuggono da Roma e si rifugiano sotto il controllo alleato, abbandonando al proprio destino lo Stato italiano e l'esercito italiano.